La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. Con l'approfondimento di Dino Pesole prosegue il nostro viaggio intorno al ruolo della musica nella storia sociale italiana. In compagnia di Paolo Prato, docente di musica, comunicazione e cultura presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ci occuperemo oggi del ventennio fascista. La seconda parte sarà invece dedicata alla ricostruzione della biografia di uno dei 21 gerarchi nazisti processati a Norimberga nel 1945, il ministro degli armamenti di Hitler, Albert Speer. La parola adesso va a Dino Pesole. La storia del nostro paese dal Risorgimento a oggi attraverso la musica. E il viaggio che abbiamo intrapreso la scorsa settimana con voi, cari ascoltatori, e che proseguirà oggi e nella prossima puntata. È con noi anche questa sera il professor Paolo Prato, che attraverso il suo libro La musica italiana, una storia sociale dall'unità a oggi, pubblicato da Donzelli, ci ha portato già la scorsa settimana ad approfondire il ruolo, potremmo dire pedagogico, oltre che sociale e politico, che ha avuto la musica nella seconda metà dell'Ottocento, imponendosi in qualche modo come gergo nazionale in un paese che da poco aveva raggiunto l'unità politica, ma non ancora quella sociale, economica e culturale. Giuseppe Verdi è stato in quella stagione della nostra storia nazionale il massimo interprete dei sentimenti di una nazione che cominciava la lunga marcia verso l'unità. Oggi affrontiamo un altro periodo cruciale della nostra storia, il ventennio fascista, in un nuovo interessante viaggio, questa volta attraverso la politica culturale e musicale del regime. Professor Prato, bentornato e grazie. Grazie a voi per avermi invitato di nuovo. In questa puntata io vorrei focalizzare con lei una parte importante del suo libro, in cui lei si sofferma sulla politica musicale del regime fascista, e cioè il ventennio fascista. Allora, un'introduzione di carattere generale, professore. Quale fu la politica musicale del regime? Ma guardi, su questo gli storici hanno opinioni diverse. C'è chi sostiene che in realtà non ebbe una vera e propria politica musicale, e facendo un passo indietro l'osservazione si riferisce al fatto che i responsabili, insomma, diciamo, della musica, quindi della cultura, del teatro, ci capivano abbastanza poco in fatto di musica, e oddio, non erano certamente gli unici in questa impresa, perché la musica come linguaggio è sempre avvolta in qualche modo dal mistero e resta un po' a margine, insomma, di tante politiche culturali. Però certamente il fascismo non brillò per una messa in campo di indicazioni precise, e non che questo debba essere visto come una cosa positiva, ma la Germania nazista e poi l'Unione Sovietica staliniana ebbero delle politiche musicali molto molto dettagliate che arrivavano a entrare nel merito proprio delle scelte musicali, delle scelte estetiche dei compositori del tempo, escludendo ad esempio manifestazioni di tipo retorico, scopiazzature che riguardassero ad esempio il mondo americano. Ecco, tutto questo nella Germania nazista, nella Russia, nell'Unione Sovietica è stato possibile, e si può dire forse anche perché tedeschi e russi di musica ne hanno saputo sempre tanto. Questo fatto però non ha impedito, ecco, per tornare a casa nostra, non ha impedito al regime fascista di mettere in campo, ecco, diverse decisioni che riguardavano appunto l'organizzazione della musica. Ne fecero alcune cose estremamente importanti ed egregie, come l'idea stessa del decentramento, che è diventato poi pratica diffusa nell'Italia anche dal secondo dopoguerra in avanti. Il carro lirico di Tespi, che portava l'opera lirica in migliaia di paesi e province italiane, fu opera certamente meritoria. La politica musicale che riguardava la musica sinfonica e classica ebbe diciamo, il merito di privilegiare la novità, la cosiddetta musica contemporanea, che veniva finanziata interamente o quasi dallo Stato, cosa di cui oggi invece si sente un po' la mancanza. Altre cose invece magari riguardavano un atteggiamento più sospettoso verso musiche di paesi che non facevano parte dell'alleanza. E a questo punto lei nel libro scrive a proposito degli anni venti, li definisce appunto gli anni del jazz e del tango, quelli in cui matura la commedia musicale e il mercato mondiale del disco a 78 giri raggiunge la sua massima espansione, prima di essere ridimensionato dalla crisi del 29. Sono gli anni della radio. Ecco, gli anni della radio, il ruolo della radio nel regime ovviamente è appurato in sede storica, il ruolo che la propaganda fascista ebbe attraverso questo strumento importante che era la radio. Lei nel suo libro come tratta questi due elementi, cioè il ruolo politico di propaganda della radio e come Mussolini la utilizzò appunto ai fini della sua politica culturale, chiamiamola così? Certo, indubbiamente da questo punto di vista il fascismo mostrò di saper cavalcare bene i tempi e mostrò quindi una grande propensione, una grande capacità di opportunismo nei confronti di un mezzo che aveva domiciliato la musica, il teatro e in parte anche l'informazione, e quindi facendo un po' piazza pulita di un passato nobile ma che ormai era in disfacimento. Parlo ad esempio dei teatri, del varietà, dei tabaren che avevano chiuso, laddove appunto la radio invece apriva dei nuovi mondi nelle abitazioni private. Quindi in questo senso la funzione sprovincializzante del fascismo fu notevole, ma certamente come in tutti i regimi totalitari un mezzo così accentratore come la radio non poteva che essere utilizzato appunto a fini propagandistici. Detto questo però, ecco, la radio ebbe anche, diciamo, gli italiani che per la prima volta entrarono in contatto con questa piccola scatola, cioè i primi esercizi di radiofonia, insomma, in quel tempo, e quindi si abituarono molto presto, anche perché il palinsesto di allora offriva fondamentalmente canzonette, motivi allegri, divertimento. Da un lato si guarda quegli anni con un velo di nostalgia positiva e negativa, ma al tempo stesso sono gli anni dell'infanzia dell'Italia moderna, e quindi è sempre un po' difficile guardare a quegli anni come a un blocco nero e assolutamente negativo. Quando canta Ravagliati fa così, e sui fianchi ben piantati resta lì, nello sguardo scansonato come un lampo fa brillar, e agitando sempre l'indice elevato, con versaggio che somiglia a mio angolare. A questo punto entra anche in gioco l'azione svolta dall'Opera Nazionale Dopo Lavoro, che, come lei ricorda nel libro, promuove in qualche modo la spettacolarizzazione della musica popolaresca. Certo, questa era un'altra invenzione del regime, che si era reso conto che l'Italia era fatta da mille Italie e che vivevano di vita propria. E proprio per questo motivo non poteva andare avanti in questo modo, perché vivere di vita propria sotto un regime totalitario significava nascondere la possibilità, ecco, di eversioni qui e là incontrollate. E allora l'Opera Nazionale del Buon Lavoro ebbe, tra le altre cose, la funzione appunto di stendere, riconfezionare in maniera omogenea un patrimonio vastissimo e assolutamente differenziato all'insegna di un'idea appunto di spettacolarità, ed è la prima volta in cui si creano compagnie più o meno stabili che mettevano in scena balletti, danze, rappresentazioni locali, tutte però sotto il segno di qualche cosa di più omogeneo, un po' come stava facendo Hollywood in America negli stessi anni, diciamo, riscrivendo le tante storie della cultura occidentale alla luce dei generi cinematografici marcati, appunto, Metro-Goldwyn-Mayer o Fox, ecco, insomma. Professore, un'ultima domanda. È corretto affermare che uno dei momenti di svolta, anche per il discorso che stiamo affrontando noi oggi, e cioè la politica culturale, politica musicale, il ruolo della radio nel regime fascista, si ebbe nel 1938 con il varo delle leggi razziali e poi la disastrosa avventura bellica del regime? Anche in quel caso lì si può parlare di una svolta, anche se in negativo. Indubbiamente questo è vero ed è proprio dimostrato, ecco. Fino a quel momento, tutto sommato, il fascismo nei confronti della radio, della comunicazione, della musica, aveva avuto un ruolo più che altro di, diciamo così, di guardiano sonnecchiante, che ogni tanto apriva gli occhi, dava un'occhiata, brontolava. Però tutto sommato lasciava passare. Ad esempio, non è affatto vero che il fascismo scese in campo per contrastare il jazz e la musica afroamericana. Non l'ha mai fatto ufficialmente, tant'è vero che a casa Mussolini, si sa, c'erano moltissimi dischi di jazz, e poi lo stesso Duce, sappiamo perfettamente che era un grande amante di musica e non solo di musica classica, di cui era anche un cultore personalmente. Detto questo, però, ecco, nel 1938, col varo delle leggi razziali, allora si ha effettivamente una radicalizzazione del contrasto, il regime scende in campo, e allora a questo punto, anche per diciamo assecondare l'alleato nazista, è costretto a fare cose che forse, chissà, magari da solo non avrebbe fatto, almeno in quei termini. E quindi a questo punto effettivamente il 38 e il preludio alla guerra segna il momento più basso da questo punto di vista. Cioè, fino a quel momento la musica comunque era tollerata, era un mezzo di intrattenimento, non di più. A questo punto bisogna anche stare attenti a quello che si canta, a quello che si dice, eccetera, eccetera. Parlami d'amore, Mario. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria per la seconda parte del nostro appuntamento settimanale con la storia. Ascoltiamo il documentario che Radio 24 ha realizzato in collaborazione con History Channel sulla figura di Albert Speer, uno dei più stretti collaboratori di Adolf Hitler. È il 20 novembre 1945 e il mondo assiste al processo di 21 gerarchi nazisti accusati dei crimini del Terzo Reich. Tra gli imputati, il più enigmatico è l'architetto e ministro degli armamenti Albert Speer. Un'anima inquieta alla ricerca del perdono del popolo tedesco o un cinico stratega capace di ingannare il mondo intero? Albert Speer? Sì, sono Speer. Signore, devo informarla che lei è mio prigioniero. Henry King, collegio di accusa. Non credo che si considerasse un criminale di guerra. Pensava che avrebbe potuto essere fra quelli che sarebbero stati impiegati dagli alleati per ricostruire la Germania. Credo che ne rimase sorpreso. Speer sembra un nazista improbabile. Cresciuto in un ambiente privilegiato, inizia la sua carriera come architetto. È il lavoro che lo porta a contatto con gli ambienti più vicini a Hitler. Richard Overy, Università di Exeter. Hitler era sempre stato affascinato dall'architettura. Albert Speer, giovane e molto affermato, attirò l'attenzione di Hitler. In loro divenne un rapporto molto stretto. Qualcuno disse che avevano un rapporto padre-figlio. Credo che Hitler vedesse in lui la persona che avrebbe potuto essere se non avesse preso una strada diversa. Negli ultimi 3 anni della guerra, Speer lavora per Hitler come ministro degli armamenti. È responsabile del funzionamento dell'imponente macchina bellica tedesca. Malgrado i bombardamenti degli alleati, riesce a far incrementare la produzione. È per il lavoro di ministro che gli alleati si interessano a lui. Quattro mesi dopo il suo arresto, Speer viene trasferito nel carcere di Norimberga come uno dei principali criminali di guerra. A Norimberga, Speer si trova di fronte per la prima volta il lungo elenco dei crimini commessi dal regime nazista. La sua reazione alle accuse avrà un effetto decisivo sull'esito del processo. Albert Speer, dalla ricostruzione del processo. E intendo riconoscere una responsabilità comune. Avevo stupidamente e ingenuamente pensato che sarei stato accusato da solo. Ma è evidente che siamo tutti accusati dei mostruosi crimini che appaiono su quel documento. Considerata l'enormità dei crimini, la storia pretende un processo. Lo so bene. E non devo illudermi sul mio destino. Ancora Overy. Oggi gli storici sono ancora divisi tra coloro che dicono «stava cercando di salvare la pelle» e quelli che dicono «ha dimostrato di essere l'unico uomo davvero per bene di tutto quel gruppo». Whitney Harris, collegio di accusa. Non immaginavo che esistesse un nazista come Speer. Era un uomo che pensava con la propria testa. Parlava liberamente. Nessun altro l'avrebbe fatto. Non negava i fatti come gli altri. Speer disse, sono stato io, sono responsabile con Hitler di quello che è accaduto dal 9 febbraio 1942. Questo fece sensazione. Dalla ricostruzione del processo. Ha qualche argomentazione che possa giustificare l'impiego forzato di civili presi nei territori occupati e portati nel Reich? Albert Speer. Da un punto di vista legale, intende? O morale. Ha mai contestato questa politica di deportazione di manodopera straniera in Germania? Da un punto di vista morale o legale? Quando cercavo di dire che tali metodi erano problematici, Hitler voleva sapere da me se intendevo accettare tali metodi o se intendevo rassegnarmi a una riduzione della manodopera. Pensando al mantenimento della produttività, come ministro degli armamenti non avevo scelta. Dalla ricostruzione del processo. Per i crimini commessi contro la pace nel mondo, ci richiede una grave responsabilità. Gli atti riprovevoli che intendiamo condannare e punire sono stati talmente premeditati e sono talmente perversi e talmente devastanti che la civiltà non può tollerare che vengano ignorati e non potrebbe sopportare che vengano commessi di nuovo. Vogliamo dimostrare che ogni imputato qui presente era informato dell'esistenza di tali campi di concentramento. Che la paura e il terrore e l'orrore indicibile di questi campi di concentramento rappresentavano gli strumenti tramite i quali gli imputati esercitavano il potere e reprimevano qualsiasi opposizione alla loro politica. L'11 dicembre del 1945 vengono presentati gli atti d'accusa contro Speer e Sauckel. La politica nazista dello sfruttamento della manodopera straniera era una politica di deportazione di massa e di messa in schiavitù. Una politica di denutrizione e di superlavoro nei confronti dei lavoratori stranieri. Una politica che li sottoponeva ad ogni forma di degrado, di violenza e di grande malvagità. L'imputato Speer aveva il compito di decidere la quantità di schiavi stranieri necessari alla macchina bellica tedesca. Era Speer che decideva di reclutare la manodopera attraverso l'uso della forza ed era responsabile del suo utilizzo in condizioni brutali, inumane e umilianti nel settore della produzione degli armamenti e delle munizioni. Il destino di Speer dipende dall'andamento della sua testimonianza. Come affronterà la propria responsabilità rispetto all'impiego forzato di manodopera? Dalla ricostruzione del processo. Il coimputato Sauckel ha testimoniato che la sua attività era determinata principalmente dalle sue esigenze. Può dirci che cosa ne pensa? Per prima cosa mi aspettavo che Sauckel soddisfacesse le esigenze della produzione bellica, ma non posso essere ritenuto l'unico responsabile della richiesta di manodopera straniera. Sauckel ha inoltre dichiarato che io incoraggiavo l'inserimento dei lavoratori in Germania. Tuttavia, non è la verità. Non dovevo esercitare alcuna influenza su Saukel perché facesse questo. La prossima fase della testimonianza di Speer è fondamentale per la pubblica accusa. La credibilità dell'intero processo di Norimberga si sarebbe basata su quanto avrebbe detto Speer. Lei aveva la possibilità di intrattenere discussioni politiche con Hitler? No, mi considerava semplicemente un ministro tecnico. Quindi, in qualità di ministro tecnico, lei limitava la sua responsabilità solo nell'ambito del suo lavoro? No. Vorrei aggiungere un particolare di fondamentale importanza. Questa guerra ha portato al popolo tedesco inimmaginabili danni e ha dato vita a una catastrofe a livello mondiale. Di conseguenza è mio innegabile dovere assumermi la mia parte di responsabilità per questo disastro dinanzi al popolo tedesco. I sacrifici che sono stati fatti da entrambi i fronti dal gennaio del 45 sono stati assurdi. I morti di questo periodo saranno gli accusatori dell'uomo responsabile della continuazione della guerra, Adolf Hitler. Il popolo tedesco è rimasto fedele a Hitler fino alla fine. E lui di proposito ha tradito la loro fedeltà. Alla fine cercò di farli sprofondare nell'abisso. Imputato Albert Speer. In seguito ai capi d'accusa per i quali è stato incriminato, questa corte la condanna a 20 anni di reclusione. Avete ascoltato il radiodocumentario realizzato da Radio 24 in collaborazione con History Channel, dedicato al processo al ministro degli armamenti della Germania nazista Albert Speer. Sempre su History Channel vi segnaliamo la serie in prima visione TV Le radici della civiltà, in onda martedì 16 agosto alle 16:05. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo.